trasportava oltre 140 persone verso la meta sognata dell'Italia. Era salpato il 7 giugno dalla costa libica nei pressi del confine con la Tunisia. Il solito barcone, colmo di clandestini disposti a tutto pur di tentare l'ingresso nel ricco mondo occidentale, si è però inabissato nelle acque agitate del Mar Libico. Secondo le autorità di Tripoli, 40 persone sono morte, un centinaio risultano disperse, ma i corpi fino ad ora recuperati sono solamente 21. A raccontare tutto, l'unico superstite tratto in salvo. Non è escluso che i cadaveri di alcune delle vittime siano tra quelli recuperati dalla Marina Militare Italiana 10 giorni fa nel Canale di Sicilia. E gli sbarchi non si fermano neppure di fronte al mare brutto di questi giorni. Ieri, a largo di Lampedusa, sono stati soccorsi altri due gommoni con a bordo 90 migranti. Domenica, oltre 400 sbarchi e sono ancora disperse 6 persone, tra cui alcuni bambini, a sud di Malta. Alessio Maurizi, GR24, Il Sole 24 Ore.